Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 26 febbraio, siamo giunti alla fine della nostra settimana con Liberi Dentro, ma siamo sempre con voi per questa mezz'ora di mattinata e i miei ospiti sono sempre Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a chi ci segue dal carcere e dalla città. E Maria Chiara Gallo da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi ospitata. Prego, e torneremo con te dopo per farti cantare, chissà se ci riusciamo. Parto con la cronaca bianca, con una notizia che ci viene dal Lazio, da Roma in particolare, perché la notizia è questa: Roma, la Fratellanza è una realtà a Re Bibbia nella chiesa del Padre Nostro. Leggo da Vatican News perché c'è una chiesa, che si chiama Chiesa del Padre Nostro, che è un luogo di culto interno al carcere romano, una realtà di integrazione e di fraternità, anche grazie a questa sua denominazione, perché uno pensa al Padre Nostro e pensa alla religione cristiana subito, ma in realtà non è proprio così, perché spiega Sandro Spriano, per anni cappellano dell'Istituto Penitenziario di Re Bibbia. Quel nome indica che lì c'è un padre per tutti i detenuti, di qualunque fede. Quindi è una grande apertura questa cosa, nessuno escluso, afferma il sacerdote. Quindi esistono, diciamo, luoghi sconosciuti alle persone, eppure tanto preziosi. E tra questi c'è proprio la Chiesa del Padre Nostro, un nome scelto quindi non a caso. Ogni giorno i detenuti musulmani, ortodossi, protestanti si ritrovano insieme ai cattolici in questo punto del penitenziario e ciascuno si sente libero di pregare secondo la propria religione. La Chiesa del Padre Nostro si chiama così proprio per una scelta di dialogo interreligioso, visto che all'interno del carcere non sono presenti altri luoghi di culto. E così questo Don Sandro Spriano, cappellano del carcere per 31 anni, ha raccontato questa storia della denominazione di questa chiesa, dicendo: abbiamo cominciato a fare gli incontri dei detenuti con i loro familiari nella piazza della chiesa, e poi la scelta di questo nome come padre per tutti quei cittadini, dice lui, che vivevano in carcere, nessuno escluso, per tutti quelli che pensavano a Dio, avevano una fede, fossero cristiani, musulmani o ebrei, questo importava. E poi racconta di questa visita nel 2015 di Papa Francesco, che ha ascoltato il suo racconto e ha chiesto agli operatori penitenziari di diventare costruttori di futuro, di non spegnere la speranza dei detenuti di essere ponti tra il carcere e la società civile. Ma adesso, Ignazio, do la parola a te, perché sempre legata a Papa Francesco c'è una notizia da Abu Dhabi. Papa Francesco e Ahmad Tayeb, che è il rettore dell'Azhar, quindi la più importante istituzione di studi dell'Islam sunnita al Cairo, che io ho frequentato a lungo quando abitavo al Cairo, perché sono i 2 anni circa, esatto, il 4 febbraio del 2019, in cui è stato firmato questo documento sulla fratellanza umana, il cosiddetto documento di Abu Dhabi. È un documento importante perché avviene, diciamo, tra le due massimo o molto importanti esponenti da una parte del cristianesimo, dall'altro dall'Islam. E si vede in questo testo, mi piace anche dirlo oggi, il venerdì, il giorno della preghiera dei nostri amici, fratelli e sorelle musulmane, si vede come ci sono tanti valori comuni tra Islam e cristianesimo, però dico la verità. La cosa che mi piace di più sono 2 o 3 righe nascoste nel documento che sono per me una bomba, e sono queste, sentitele in arabo. Inna mafhum al-muatana yakumu ala musawati fil wajibati wal huquq allati yanamu fidilahi al-jami'u bil adl. Allora, dice così: il concetto di cittadinanza si basa sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri, sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Muatana, cittadinanza, non è un termine strettamente religioso, né nel cristianesimo né nell'Islam. Muatana, cittadinanza, è un concetto che è laico. E come tale, quindi, è molto bello, molto importante, molto significativo che i 2 più importantissimi esponenti delle 2 maggiori religioni mondiali, nel momento in cui devono trovare un principio che consente a tutti di vivere insieme, tirano fuori la cittadinanza, che è anche il principio della nostra Costituzione. E direi che è la cosa forse più forte che possiamo tenere di questo documento, credenti e non credenti. Grazie Ignazio, e ora tocca a te lanciare il brano di oggi. Allora chiudiamo con questa rassegna dedicata alla grande cantante marocchina Nabila Mahan, con un canto dal titolo tipicamente religioso, Ya Allah, Ya Maulana. Che tradotto? Che vorrebbe dire, oh Dio, Maulana vorrebbe dire nostro padrone, però c'è un'ambiguità, perché vuol dire anche nostro servo. Infatti si scherza molto con gli arabi. Quando tu chiami uno Maulana, lui si mette a ridere, perché vorrebbe dire che lo chiami o mio padrone, però anche lo dici anche mio servitore. Quindi ha questi due doppi significati. Grazie. Sicuramente nel primo significato, andiamo al padrone. Eccoci sulle note di Nabila Mahan, continuiamo Ignazio con te con il nostro Galateo arabo internazionale, sempre con la, e chiudiamo con la virtù del perdono. Sì, direi che questo l'ultima puntata, ecco, di questo ciclo è una cosa molto bella, anche molto pratica. L'Islam ti dice, se fai qualcosa di male, e il Galateo arabo in generale, fai seguire questa cosa di male, e in arabo diciamo sayyat, con qualcosa di bene, il hasane, il hasanat. E allora, l'afu, dare il perdono, è una cosa potentissima per cancellare il male, perché l'afu, il perdono, cancella il male ricevuto. Io ne ho fatte di cose cattive nella mia vita, tutti ne abbiamo fatte, ma nel momento in cui riceviamo un'offesa, un'ingiustizia, se noi siamo capaci di perdonare, nukaddem l'afu l'akharin, allora questo cancella tante cose. E come diceva Maria Chiara fin dall'inizio, è quest'acqua buona che cancella tante cose brutte della nostra vita. Grazie Ignazio. Allora venendo a te, Maria Chiara, che hai fatto della tua virtù del canto il tuo lavoro, la tua virtù ma anche la tua passione, il tuo lavoro, quali consigli a chi vuole coltivare anche all'esterno questa passione? È una bellissima domanda, anche un po' complicata per poter rispondere, cioè le risposte sono molteplici su vari livelli. Prima di tutto ci vuole, secondo me, la guida giusta, anche molta passione, molta capacità di ascolto, molta curiosità. E sicuramente avere dei bravi insegnanti o delle persone che credano in noi. È una cosa abbastanza fondamentale. La prima cosa in assoluto però è che noi crediamo in noi stessi. Io ho iniziato da piccola iscrivendomi a un coro di voci bianche, mai avrei pensato che sarebbe diventato il mio lavoro, il canto, e invece così è stato. La mia mamma mi aveva iscritto a questo coro per farmi passare un po' il tempo, perché mi piaceva cantare insieme a mio fratello. Però in seguito ho continuato con un'altra scuola di musica e lì mi ha sentito una persona che mi ha detto dovresti provare a entrare in conservatorio. Mi sono preparata l'esame di ammissione e poi da lì sono entrata. Poi però anche all'interno del conservatorio ci sono tante, o delle scuole di musica, ci sono tante cose che influenzano la nostra crescita e il nostro percorso. Incontrare un insegnante giusto, qualcuno che ci ascolti, fare un'audizione che va particolarmente bene, dunque è una cosa fattibile e sarebbe anche auspicabile, no? Fare un percorso musicale anche professionalizzante, non solo per il canto, ma per gli strumenti in generale, anche per chi eventualmente esce poi da un carcere e desidera fare questa cosa, prima di tutto per se stesso e poi volendo perché diventi un mestiere. Non è facilissimo, devo dire, perché c'è molta competizione, ci sono molte persone e a onore del vero appunto non è molto facile. Il livello è molto alto, ci vuole molto studio, molto ascolto tutti i giorni, tranne magari se uno si prende qualche giorno di vacanza, chiaramente, o la domenica, però sì, è come essere sportivi, per cui insomma i consigli possono essere tantissimi e la vita poi di un musicista, di un cantante nello specifico, non è facilissima perché il canto, il suo bello, il suo brutto, la sua croce delizia è che risente di tutto quello che ci succede, dall'avere magari dormito poco, preso umidità, mangiato la peperonata che magari ci è rimasta sullo stomaco e ci dà un po' fastidio, tutto può succedere, no? Per esempio, io mi sveglio al mattino e magari chi Ecco. vive con me mi prende per una pazza perché controllo come sta la mia voce, no? E magari inizio proprio appena sveglia mentre mi preparo il caffè, fare sento se ho dormito bene, come sta la voce, se ho avuto un po' di reflusso, eccetera. E poi magari quando mi sento pronta, anche in base a come organizzo la mia giornata, se ho degli impegni, poi mi metto a studiare scaldando il fisico e il mio strumento, no? Che è qua dentro. Per cui magari faccio prima un vocalizzo breve, per esempio. Mini, mini, mini, mini, mini, facendo questa I piccola come se fossi un po' una strega per muovere la bocca, i muscoli, eccetera, e poi passo invece magari a dei vocalizzi che scaldino più il fiato come rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Magari non c'entra esattamente con la domanda che mi hai fatto all'inizio, ma è tutto un po' collegato. Per dire che insomma la passione si intreccia poi con lo studio, si intreccia poi con la vita quotidiana, perché c'è anche, volevo chiudere dicendo questa cosa, c'è anche la credenza falsa che un cantante sia, o un musicista sia slegato dalla realtà, ma invece ecco, è tutto collegato. Non so se ho risposto pienamente alla Hai domanda, ma risposto a tutto e grazie per il tuo grazie gorgheggio mille, sotto la doccia sì. con cui Esatto. lancio il brano musicale di metà mattina. Siccome abbiamo parlato di Re Bibbia, abbiamo parlato di questo grande carcere con la chiesa del Padre Nostro, Antonello Venditti, Roma Capoccia. Grazie, grazie a tutti. Se bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone, e le coppiette se ne vanno via, quanto se bella Roma, quando piove. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando Bentornati su l'arancio Liberi Dentro, siamo sembra sempre con un ospite nella seconda parte di puntata. Maria Inglese la conoscete benissimo oramai. Buongiorno Maria, bentornata. Buongiorno Caterina. Allora, con te Maria abbiamo affrontato dalle ultime volte le malattie dell'istituzione, quindi abbiamo parlato della separazione, dell'isolamento, dello sradicamento, poi della paranoia, della vittimizzazione, ma anche poi degli eventi critici e anche di emozioni forti che però non sono negative, come per esempio la paura. Oggi affrontiamo tre parole molto vicine, purtroppo oserei dire, per chi vive il carcere. E queste parole sono la pena, ovvero la sanzione per la violazione di un precetto penale secondo il diritto, il reato, che è il fatto giuridico collegato alla pena, e la colpa, di cui parleremo alla fine, che ha un senso molto più ampio e coinvolge anche la nostra moralità. E lo facciamo attraverso un libro, se lo vuoi far vedere. Esatto, questo. Di Ivo Lizzola, Oltre la pena, l'incontro oltre l'offesa. Vai Maria, raccontaci. Grazie Caterina. Guarda, inizio proprio subito con la citazione che ha messo Ivo all'inizio del suo libro. E questo libro è dedicato, dice, agli uomini e alle donne della colpa e della pena, alle donne e agli uomini non innocenti che provano a rendere giustizia. Allora, il libro di Ivo affronta il discorso della pena e della colpa, ma partendo da una definizione dell'uomo del reato, il quale appunto non sempre incontra nel proprio percorso detentivo di riabilitazione la colpa. Incontra sicuramente la pena, e la pena è, diciamo, è diffusa proprio dentro al dispositivo giustizia, al dispositivo carcere. Ivo scrive che esiste una pena arrecata, che sono appunto i gesti di offesa e le ingiustizie, esiste una pena sofferta per ciò che si è subito, quindi parla delle vittime in questo caso, e poi esiste una pena a cui si è costretti, condannati, è la pena dell'uomo del reato. La giustizia, nel suo percorso di rendere giustizia, ha al centro soprattutto il fatto illecito, noi lo sappiamo, no? Il reato. E tutto viene svolto e agito per cercare di definire che cosa è successo. Al centro c'è il reato, il fatto, e al massimo c'è il reo, cioè il colpevole, la persona che è da giudicare. Manca totalmente la vittima, sia nel processo penale, manca ancora di più, questo lo dico perché nel mio percorso come operatrice del carcere, manca ancora di più dentro al carcere, cioè non esiste la presentificazione della vittima, di ciò che si è fatto. Invece abbiamo detto... Si potrebbe dire quindi, secondo te, che manca l'incontro. Esatto, manca l'incontro. Allora, nel procedimento penale, nell'applicazione della giustizia, questo non è possibile. Penso che sia anche a tutela della vittima stessa, naturalmente, per evitare la vittimizzazione secondaria che spesso avviene. Ma manca anche, nel percorso rieducativo, nell'applicazione della pena in carcere. Questo è un po' responsabilità penso degli operatori, di tutti, che incontrano il reo, incontrano l'uomo della pena, in questo caso dentro al carcere, che subisce una pena afflittiva, ma che appunto non riescono a presentificare quella che è la vittima del proprio gesto illecito, che non è solo la vittima concreta in carne e ossa, che appunto non è detto che si possa incontrare, magari la vittima non vuole, ma è anche, diciamo, il danno arrecato alla relazione in sé e quindi a quel patto sociale che ci rende legati uno all'altro. Allora io, e questo devo, sono veramente debitrice a Ivo, che mi ha insegnato come posizionarmi anche rispetto, lui che è un pedagogista, rispetto al mio lavoro di professionista della cura. Noi siamo in quel momento interfaccia per l'uomo del reato, per l'uomo della pena, perché il modo in cui noi ci rapportiamo a loro, e quindi anche i volontari, mettiamo anche gli operatori penitenziari, siamo l'interfaccia tra il dentro e il fuori, come verranno visti i detenuti o ex detenuti. Quindi quegli incontri lì sono fondamentali, possono portare alla trasformazione, e magari appunto possiamo vedere qualche esempio. E infatti ne parliamo dopo. Il brano musicale che lanci tu? Allora, ho pensato a una canzone di Fabrizio De André, Il testamento di Tito. Ascoltiamola. Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano, con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre, onora la madre, e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso, perché le chiedi. E rieccoci sulle note del testamento di Tito di Fabrizio De André. Siamo sempre con Maria Inglese. E Maria, ora con te, siccome ne parlavi prima, parliamo allora della trasformazione. Esatto, il confronto può avvenire in carcere, l'obbligazione, come la chiama Ivo, quella relazione esigente del dovere di vita a vita, dell'incontro di sguardi. Ecco, quel tipo di sguardi che si incontrano anche in carcere è molto esigente. Io pretendo molto, non ci si accontenta. E dov'è che avvengono questi momenti di trasformazione? Ma ad esempio Ivo parla di incontrare la fragilità dell'altro. In carcere spesso i detenuti incontrano persone più fragili di loro, ad esempio persone più malate, persone più povere, persone straniere senza una rete sociale. Già questo è un tipo di incontro che obbliga alla trasformazione dello sguardo. In che poi senso? Quando... Cioè nel senso, spiegaci perché di fronte alla fragilità dell'altro c'è una trasformazione dentro di noi. Perché è come se tu dovessi cambiare il tuo posizionamento, mm-hmm. prendendoti non più cura del tuo sé, del tuo io in quel momento, ma guardando a chi accanto a te, spesso nella stessa cella, nei pochi metri quadrati che si condividono, ha più bisogno di te. Mm-hmm. Informali che si stabiliscono anche involontariamente tra detenuti giovani e vecchi, cioè dove magari il coccellino diventa una sorta di caregiver dell'anziano. Ecco, quelli sono momenti di passaggio, di trasformazione molto generativi, molto importanti. Ce ne sono altri, ad esempio anche l'incontro con la propria genitorialità, detenuti padri che possono ragionare su che tipo di trasmissione, di eredità lasciano ai propri figli, che tipo di ricordo lasciano ai propri figli. Anche questi sono momenti di grande trasformazione. Oppure anche il lavoro su di sé dal punto di vista psicologico, psicoterapeutico, quello naturalmente implica una trasformazione dello sguardo che ho su di me. Sulla mia esperienza, quindi non solo chi sono, ma anche che cosa ho fatto. E qui magari poi apriamo l'ultima parte sul senso di colpa. E poi ecco, riuscire ad accettare quelle parole che gli altri ci portano, e spesso anche i volontari portano, che sono parole miti, mm-hmm. parole che non giudicano. Ecco, riuscire a fare propri questo tipo di approccio sono quei momenti di incontro trasformativi che appunto Ivo descrive molto bene nel suo libro e che nelle attività quotidiane in carcere si incontrano, ad esempio nella formazione scolastica, nelle attività, nei laboratori di scrittura. Tu stessa hai esperienza di questo, quanto la scrittura può essere trasformativa. E in breve, Maria, magari poi non ci resta molto tempo, lo rilanciamo la prossima volta, sulla colpa che ti dicevo, come dicevo prima, ha un senso molto più ampio, coinvolge anche la nostra responsabilità morale. Esattamente, la colpa è appunto definita come un'azione che reca un danno a qualcuno e della quale noi diventiamo consapevoli di questa colpa. E implica il rimorso, e quindi tu giustamente dicevi ha a che vedere molto con il nostro sé molto profondo. Però voglio chiudere con una definizione di colpa che ho trovato invece molto interessante, che andrebbe forse un po' lavorata, che è la colpa nel linguaggio nautico. La colpa nautica si definisce la trascuratezza del comandante per le normali cautele. Ecco, io ho trovato che questa definizione di colpa molto si avvicina come noi operatori, volontari, professionisti ci avviciniamo all'uomo del reato e della pena, che possa diventare anche un momento per elaborare la propria colpa, le proprie trascuratezze sulle cautele. Sì, grazie Maria. E ora un brano lo lancio io, Cyrano di Guccini, perché anche lui in qualche modo parla di offesa in senso fisico. Alla grazie. Prossima. Ciao. Ciao. Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe. Io solo sono un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli appelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti. Venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte. Coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato. Coi furbi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. Rieccovi dopo aver ascoltato la nostra psichiatra dell'ASL di Parma, Maria Inglese. Il nostro appuntamento è questa volta lunedì prossimo alle 9 su Radio Città Fujiko, alle 10.30 su Teletricolore, e non perdetevi l'appuntamento di oggi pomeriggio con i cantieri meticci alle 17 sempre su Teletricolore, canale 636. Ma ovviamente ci sono anche gli appuntamenti del fine settimana, quindi il 27 di febbraio il Vangelo ti è vicino e il Teatro del Pratello, sempre sulla televisione. Il 28 abbiamo l'appuntamento Note Libere e coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna e redazione Eduradio di Parma con sempre la nostra Maria Inglese. Gli appuntamenti precisi li avete alla nostra newsletter che vi abbiamo inviato via cartacea e che potete leggere dalle lettere, oppure appesa in bacheca, oppure sul sito di liberidentro.home.blog. Scriveteci a liberidentro.eduradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. E noi ci rivediamo la prossima settimana. Ciao!